ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, benvenuti a Dedicato. Allora, canticchio felice, semplicemente perché in questo momento, e durerà pochissimo, io sono in studio da sola e mi sto godendo questo momento di relax con voi, perché a breve partirà il delirio natalizio, perché oggi, il 4 dicembre, è cominciato il mese natalizio. Come tutti ben sapete, Dedicato a questi momenti annuali in cui non può esimersi dal fare caos, e il Natale purtroppo è uno di questi momenti. Cioè, purtroppo, per fortuna, vedete voi come vi piace di più, ma qui in studio si crea il delirio nel mese di dicembre. Perché? Perché con i nostri ragazzi stiamo preparando concerti, spettacoli, i più piccoli stanno studiando per far sentire alle loro famiglie brani musicali durante i periodi natalizi, e quindi stiamo esportando musica ovunque in Italia, perché poi non solo in Italia, perché abbiamo bimbi anche stranieri tra i nostri giovani musicisti, quindi esporteranno la nostra musica in tutte le loro case in giro per il mondo alla fine. Quindi questa è la vera verità, ecco. E in questo momento io stavo pensando un po' di programmazione per questi giovani fanciulli, ma sono sicura che quando gliela dirò avranno ovviamente da lamentarsi, perché la tendenza è andare verso le musiche che oggi, insomma, noi cerchiamo di non proporre in questa trasmissione, invece i giovani vorrebbero ficcarci dentro in qualunque modo. Ma abbiate fede, intanto ascoltiamo un primo brano e poi vediamo che cosa succede da qui a Natale. Okay. Il nostro primo brano sono diventati tre, perché a dedicato funziona così: abbiamo mandato Cyndi Lauper, abbiamo mandato i Queen e abbiamo mandato Alberto Camerini con Rock and Roll Robot, grande pezzo che unisce poi tutti questi brani e il significato di questa puntata, ma non solo, perché andremo avanti in questa cosa, perché ci stanno arrivando un sacco di contributi. Ma voi direte: quale cosa? Questa cosa delle puntate anni 80-90, cioè a un certo punto quelli grandi di dedicato si sono scocciati di quelli piccoli di dedicato, e lo staff è un po' fatto così, la famiglia funziona in questo modo. Di conseguenza abbiamo rivendicato il nostro essere cresciuti in maniera diversa da loro, come è normale che sia per tutte le generazioni, ma come è altrettanto normale, ogni generazione ama il suo periodo preadolescenziale, adolescenziale e della, insomma, della prima età adulta, ma anche quello infantile in tanti casi. Quindi chi era piccolo negli anni 80-90 o comunque ragazzo ci tiene a quel periodo storico. E visto che noi dello staff di dedicato siamo tantissimi della generazione X, ci va di raccontarla a chi? Ai giovani, perché chiaramente noi la conosciamo e sembriamo dei nostalgici che si scambiano battute tra di loro. No, no, assolutamente nessuna puntata nostalgica da parte di dedicato, ma cultura per i giovani di oggi, come loro poi insegneranno ai giovani del 2040, quindi siamo fatti così, insomma, che dire. Allora, vi beccate queste puntate sugli anni 80-90. Cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo chiesto dei contributi a persone che conosciamo in svariato modo, quindi ognuno ha detto la sua, e poi chiediamo dei contributi anche ai nostri fanciulli, perché ricollegandomi al discorso iniziale di questa puntata, io cosa ho fatto? Ho assegnato dei brani da suonare tutti anni 80-90, quindi avremo le voci dei personaggi che hanno vissuto gli anni 80-90, ma avremo anche la musica dei nostri giovani che stanno studiando quel periodo e speriamo si divertano come ci siamo divertiti noi. Allora, se io devo pensare a una vignetta che mi riporta proprio in automatico agli anni 80, mi vengono in mente quei pomeriggi del weekend, di sabato e le domeniche, passati con Video Music a palla, che allora era Video Music, non era MTV, il primo canale con i videoclip musicali, a palla in attesa che dessero il videoclip, non so, della nuova canzone di Michael Jackson, di Madonna, una cosa che non avevi ancora visto. Sotto Natale gli Wham che giravano ogni due per tre, ma più giravano più tu li volevi guardare. E tenevi lì pronto il telecomando del videoregistratore VHS rigorosamente, con una cassetta dentro, quelle cassette che si compravano vergini, ma poi ci veniva registrato sopra la qualunque, sempre rigorosamente, che cominciava a metà il film delle 8:30, che però come lo registravi che era già cominciato, oppure l'ultima puntata del tuo cartone animato preferito, le puntate di Capitol che venivano date quando tu eri a scuola, e quindi c'era addirittura la programmazione. Insomma, vabbè, la tua videocassetta che avevi conquistato a grandissima fatica da parte dei tuoi genitori, e la potevi usare per farci quello che volevi, e ci volevi fare una bella playlist di videoclip. E ci mettevi il tempo che ci mettevi ad arrivare in fondo alla videocassetta, metterci tutti i tuoi video preferiti, video che poi insomma erano anche i primi che uscivano, insomma una meraviglia. Niente a che vedere con la facilità, velocità e anche poco impegno di digitare su YouTube la qualunque, che ormai c'è la qualunque. Le cose si conquistavano negli anni 80 a fatica. Gli anni 90 per me sono andare in giro in Vespa con gli anfibi e un vestitino floreale X, rigorosamente senza reggiseno, con spalline sottili quando potevo permettermi tutto ciò, una camicia sopra, senza casco. Via, colonna sonora grunge, alternative rock, grunge che poi si dirà grunge, ma insomma alternative rock, non so, i Nirvana, i Soul Asylum, così, innamorarsi di un ragazzo coi capelli lunghi, passare del tempo a carezzare questi capelli, li fai a coda, vabbè, anni 90, questo. She's over. Bene, allora abbiamo ascoltato due brani, Duran Duran con Wild Boys e Smell Like Teen Spirit dei Nirvana, rispettivamente anni 80 e anni 90, e abbiamo ascoltato la prima voce di questa fanciulla del 1976 che secondo me oggi non può più mettere i vestitini scollacciati senza reggiseno, ma può fare tanto altro, conoscendola, così per dire. Quindi grazie intanto per il tuo contributo. E iniziamo ad ascoltare anche altre voci, vediamo che cosa succede in studio soprattutto oggi. Sono scappata dalla porta di fianco dove stanno provando Diavolo in me di Zucchero per appunto uno dei concerti a tema anni 80-90 che abbiamo assegnato ai nostri fanciulli. E Diavolo in me è uscita nel 1989, è una canzone di Zucchero, è molto ritmata, quindi i batteristi devono darsi da fare parecchio. Comunque andiamo ad ascoltare due voci giovani invece, di cosa ne pensano degli anni 80-90? Di sicuro la musica, comunque la cultura, ha una grande influenza, almeno dal mio punto di vista, cioè io ascolto molta musica che o proviene da quegli anni o è stata influenzata dalla musica di quegli anni, e poi per il resto non saprei dire molto perché appunto non ero ancora nato. Mi interessa come periodo, è qualcosa che mi affascina. Ok. Beh, diciamo che anch'io sento un po' di musica degli anni 80, diciamo che la musica degli anni 80 ha plasmato la musica di adesso come la musica degli anni 60 ha plasmato quella degli anni 80 e niente. Ok. Viva i Metallica! Salve mascotte! Ciao! Bene, stiamo... Wow! Sì, allora, stiamo parlando degli anni 80-90, ha qualcosa da dire lei? No! Noi... Non sono nata in quegli anni, quindi non posso sapere più di tanto. Ma come? Cioè, non è che uno sa solo quello che vive nella quotidianità, non no? Non sa niente. I saperi sono tanti. Non sa niente. Non le interessa sapere? Sì, mi interessa, ma non lo so. Gli anni 80 sicuramente a livello musicale sono stati gli anni che poi hanno strutturato tutta la musica che c'è adesso, no? State le fondamenta sono state. Bene. Oltre alle cose molto prima. Molto prima, tipo il barocco. Tipo il barocco. Tipo, ecco. E niente, a livello sociale ci sono stati grandi cambiamenti e basta. Grazie, cioè, grazie. Ciao. Io ascolto soprattutto musica di quegli anni lì. Ok. Da un po' di Police, i Queen, i Clash. Poi l'ho vista in tante serie. Ovviamente non l'ho potuta vivere mai, ma sembra interessante. Sembra interessante, perfetto. Da fuori. Anche da dentro, te lo garantisco. Però è interessante che tu alla tua età ascolti musica di quel tipo e ti interessi, ti piaccia. Ciao, cosa ne pensi della musica anni 80-90? Ti interessa? Ti piace? Sempre bello avere a che fare con dei batteristi, ma soprattutto fargli delle domande e ottenere risposta. Grazie, grazie batteristi, grazie. Take this badge from me. Guns N' Roses direttamente dagli anni 90. Siete fantastici, ragazzi. Cioè, adesso io ci ho passato notti e notti intere ad ascoltare i Guns N' Roses, ma non solo, ovviamente, sempre per quella storia delle videocassette. Di video music che si registravano e ti riguardavi i video tutte le volte che volevi, erano consumate le videocassette, ma anche le musicassette, perché devo dire che anche l'audio aveva un suo certo effetto in quegli anni con i Walkman che ce lo portavamo in giro, queste cuffie orribili che non si potevano guardare, ma al di là di quello, vedersi il video effettivamente aveva un senso diverso. E proprio riguardo a questo ascoltiamo un altro paio di testimonianze direttamente dagli anni 80-90. Secondo me gli anni 90, e forse direi anzi no, gli anni 80 sono quelli, a parte che non c'erano i cellulari, non c'era internet, non c'era niente praticamente, ma sono quelli dove la tecnologia erano i videoregistratori, cioè c'erano degli oggetti che allora chiamavamo videocassette, dove praticamente c'erano i film sopra e tu dovevi mettere questi oggetti, che erano piuttosto ingombranti, dentro a dei dispositivi che erano i lettori per videocassette, che venivano anche chiamati VHS, dove dentro si potevano vedere i film. Ecco, quello è stato l'inizio praticamente della fine dei cinema, innanzitutto, perché i cinema sono praticamente scomparsi a partire da lì, ma è stato l'apoteosi dell'essere in grado di vedere il mondo a casa tua, perché una volta, vabbè, a parte, voglio dire, c'era soltanto il telegiornale, e poi al limite c'erano dei programmi veramente ameni, e poter vedere invece qualsiasi film a casa tua era veramente una cosa pazzesca, per cui assolutamente anni 80 e 90 è il trionfo delle videocassette. E io devo dire un'ultima cosa: quando mi sono fidanzato, per dimostrare tutto il mio amore, ho regalato alla mia ragazza, che ha detto di sì naturalmente, il videoregistratore di fidanzamento, che è da qualche parte ancora in soffitta. Ciao ciao! Bene, io sono quella che ha avuto il videoregistratore, perché mi interessavo di cinema da molto tempo. Infatti a 40 anni, dico sempre, non è mai troppo tardi, mi iscrivo al DAMS. E questo videoregistratore ha permesso a noi di scrivere un libro, il famoso Tu sei male, io sono la cura, negli anni 90. Era un libro fondamentale per capire il cinema d'azione del periodo. Per cinema d'azione si parla di Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis e chi più ne ha più ne metta. È venuto fuori un libro divertente, le battute degli attori sul cinema d'azione. Ma non mi sono mai laureata al DAMS, però mi sono divertita. Bene, grazie a tutte le voci dagli anni 80-90 che ci hanno raccontato le loro memorie, i loro modi di essere, modi di vivere di quegli anni. Assolutamente ci risentiamo la prossima settimana con la seconda puntata di Dedicato sugli anni 80-90, perché ci state mandando talmente tanti contributi che non possiamo certo censurarne nessuno, quindi daremo spazio a tutti. Ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 13, su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, è stato troppo sole, va sempre più giù.